Capitolo 3. Saluti e addii. Charlie Sloane, Gilbert Blythe e Anna Shirley lasciarono Avonlea il lunedì seguente di buon'ora. Anna aveva tanto sperato che fosse una bella giornata perché Diana l'avrebbe accompagnata in calesse alla stazione. Lo desideravano entrambe affinché la loro passeggiata, che sarebbe stata l'ultima per un po' di tempo, avvenisse nelle migliori condizioni. Ma quando Anna si coricò sabato notte, il vento dell'est cominciò a gemere intorno a Green Gables, foriero di una sinistra profezia che la mattina seguente si rivelò esatta. Quando Anna si alzò, grossi goccioloni di pioggia battevano infatti sui vetri delle finestre e disegnavano anelli sempre più larghi sulla superficie dello stagno. Anna si vestì nella luce fredda e grigia dell'alba perché doveva alzarsi presto per prendere il battello, lottando contro le lacrime che, nonostante gli sforzi per contenerle, le bruciavano gli occhi. Stava per lasciare la casa che aveva tanto amato. E qualcosa dentro di lei le diceva che sarebbe stato per sempre e che sarebbe tornata solo per trascorrervi le vacanze. Nulla sarebbe stato più come prima, trascorrervi un po' di tempo nelle pause del lavoro. Non sarebbe mai stato come viverci. Oh, come ogni cosa era amata e cara al suo cuore. Il piccolo portico bianco, consacrato ai suoi sogni di fanciulla, la vecchia signora delle nevi alla finestra, il ruscello lucente nella valle, la fonte delle driadi, il bosco stregato e il sentiero degli innamorati, tutti i mille e uno luoghi in cui si annidavano le dolci memorie del passato, avrebbe potuto essere altrettanto felice in un altro posto. Quella mattina la colazione a Green Gables si svolse in un'atmosfera molto triste. Davy, forse per la prima volta in vita sua, non ebbe la forza di mangiare. Ma singhiozzò senza ritegno sul suo budino d'avena. Nessun altro mostrò appetito, tranne Dora, che finì senza fatica la propria razione di cibo. Dora, come l'immortale e prudentissima Carlotta, che continuò a tagliare fette di pane e burro mentre il corpo del suo innamorato impazzito le passava davanti, avvolto in un drappo funebre, era una di quelle fortunate creature che raramente si lasciano turbare da qualcosa. Anche alle 8 ci volle un bel po' per scalfire la sua calma. Beninteso, era dispiaciuta che Anna stesse per partire, ma per quale ragione non doveva gustare il suo uovo in camicia appoggiato su una fetta di pane tostato? Davvero nessuna? E vedendo che Davy non riusciva a mangiare il suo, lo mangiò lei per lui. Puntualissima comparve Diana con cavallo e carrozzino, il volto roseo, splendente sotto il cappuccio dell'impermeabile. Era il tempo degli addii. Giunse la signora Linde dai suoi appartamenti per gratificare Anna di un caloroso abbraccio e raccomandarle di aver cura della propria salute, cosa che lei fece. Marilla, asciutta e senza lacrime, diede un buffetto ad Anna sulla guancia e le disse che sperava di avere sue notizie non appena si fosse sistemata. Un osservatore distratto che non avesse posato lo sguardo sui suoi occhi avrebbe potuto pensare che la partenza di Anna non le pesasse poi tanto. Dora la baciò, compita, e spremette due lacrimucce di prammatica. Davy, che era rimasto a piangere sotto il portico del retro fin da quando si erano alzati da tavola, rifiutò categoricamente di dirle addio. Quando vide Anna dirigersi verso di lui, si alzò precipitosamente in piedi, infilò di corsa le scale posteriori e si rifugiò in un armadio dal quale non volle saperne di uscire. I suoi singhiozzi soffocati furono gli ultimi suoni che Anna udì prima di lasciare Green Gables. Piove a dirotto durante tutto il tragitto fino a Bright River. Alla cui stazione erano dirette, come era necessario da quando il treno proveniente da Carmody non aveva più la coincidenza con il battello. Allorché Anna giunse alla stazione, Gilbert e Charlie erano già sulla piattaforma e il treno stava fischiando. Ebbe appena il tempo di fare il biglietto, consegnare il bagaglio e dire frettolosamente addio a Diana, che era già a bordo. Avrebbe voluto tornare indietro ad Avonlea con Diana. Sapeva che sarebbe morta di nostalgia. Ah, se soltanto quell'orribile pioggia avesse cessato di cadere, come se il mondo intero piangesse sulla fine dell'estate e dell'allegria. Non ricavò conforto nemmeno dalla presenza di Gilbert, perché Charlie non si staccava dal suo fianco e gli Sloane erano sopportabili solo con il bel tempo. Con la pioggia erano assolutamente intollerabili. Ma quando il battello uscì dal porto di Charlottetown, Le cose parvero volgersi per il meglio. Cessò di piovere e un sole fiammeggiante cominciò a far capolino di tanto in tanto tra gli squarci di nubi, tingendo le acque grigie della sua luce ramata e fugando la nebbiolina leggera che velava le rosse spiagge dell'isola con sprazzi d'oro a preannunciare, nonostante tutto, una bella giornata. Charlie, inoltre, cominciò a patire il mal di mare e dovette ritirarsi sotto coperta, sicché Gilbert e Anna rimasero soli sul ponte. «Sono davvero felice che gli Sloan patiscano tanto il mal di mare», pensò Anna grata. «Non sarei mai riuscita a dare un ultimo sguardo alla mia terra natia, con Charlie che mi gironzola intorno, sfoggiando anche lui un'aria sentimentale». «Bene, adesso ne siamo davvero fuori», constatò Gilbert senza troppi sentimentalismi. «E io mi sento come il giovane Aroldo di Byron, solo che non è la mia terra natia quella che sto guardando», commentò Anna sbattendo con forza le palpebre nel tentativo di ricacciare le lacrime. «Lo è la Nuova Scozia, a rigor di logica, ma la terra natia è quella che ciascuno di noi ama di più, e cioè, nel mio caso, la vecchia isola. Non riesco a credere che la mia vita non si svolgerà più lì. Gli 11 anni che precedono la mia venuta laggiù mi sembrano un brutto sogno. Sono 7 anni che non metto piede in questo battello, dalla sera in cui la signora Spencer mi portò qui da Hopetown. Mi rivedo in quel terribile cappotto vecchio di flanella, con il cappello da marinaio sbiadito in testa, mentre esploro i ponti e le cabine, piena di curiosità. Era una bella serata. Ricordo ancora che le spiagge rosse dell'isola splendevano letteralmente alla luce del sole. E adesso sto rivivendo quel momento. Oh, Gilbert, spero con tutto il cuore che Redmond mi piaccia, ma sono sicura che non sarà così. Beh, dove è andata tutta la tua filosofia, Anna? È stata completamente sommersa da un'ondata di solitudine e di nostalgia. Aspettavo da 3 anni l'occasione di andare a Redmond e ora che l'ho ottenuta vorrei non andarci più. Sarò di nuovo allegra, pimpante filosofa solo dopo essermi concessa un pianterello. Devo proprio farmene uno. Ma dovrò aspettare di essere nel letto della pensione prima di potermelo concedere. Solo allora Anna sarà di nuovo la stessa. Chissà se Devi è uscito dall'armadio. Erano le 9 di sera quando il treno si fermò a Kingsport e i giovani si trovarono nell'accecante luce bianco-azzurra della stazione affollata. Anna si sentì orribilmente disorientata, ma un attimo dopo fu catturata da Priscilla Grant, che era arrivata a Kingsport il sabato precedente. «Tesoro, sei arrivata! Scommetto che sei stanca quanto lo ero io sabato sera». «Stanca? Priscilla, non parliamone. Sono stanca nera e provinciale e mi sento come una bambina di 10 anni. Per carità, raccogli questa esule distrutta e portala da qualche parte in cui riesca a riordinare la propria testa». «Oh, ti condurrò dritta alla pensione. Abbiamo un taxi che ci aspetta fuori. È proprio una benedizione del cielo che tu sia qui, Prissy. Se non ci fossi stata, credo proprio che mi sarei seduta sulla mia borsa, qui e ora, e avrei versato lacrime amare. Che conforto vedere una faccia familiare in questa folla di stranieri urlante e inferocita». «E quello sarebbe Gilbert Blythe? Com'è cresciuto? Oh, nel giro di un anno. Era solo uno scolaretto quando insegnavo a Carmody. E naturalmente l'altro è Charlie Sloane. Era già così quando è nato e avrà la stessa faccia anche a 80 anni. Da questa parte, cara, saremo a casa tra 20 minuti». «A casa?» mugolò Anna. «Dimentichi che saremo in qualche spaventoso pensionato, in un'ancor più spaventosa camera con salotto affacciata su un angusto cortile interno». «Non è un orribile pensionato, ragazza mia. Oh, ecco il nostro taxi. Sali, penserà il conducente al tuo bagaglio». «Oh, sì, il pensionato è un posto davvero delizioso nel suo genere. Anche tu sarai costretta ad ammetterlo domani mattina, quando una buona notte di sonno avrà fatto ritornare rosa sulle tue guance bluastre. È una vecchia casa all'antica in St. John Street, a un tiro di schioppo da Redmond, interamente costruita in pietra grigia. Un tempo St. John Street era abitata dalla crema della città, poi è passata di moda e ora alle sue case è rimasto solo il ricordo dei tempi migliori. Sono così grandi che i loro abitanti sono costretti a prendere dei pensionanti solo per riempirle. Almeno questa è la ragione che le nostre padrone di casa adducono e sono molto ansiose di farci credere. Sono deliziose, le nostre padrone di casa, intendo. Quante sono? Due. La signorina Hannah Harvey e la signorina Ada Harvey. Sono nate gemelle 50 anni fa. Non riesco a sfuggire ai gemelli, sorrise Anna. Dovunque vada mi aspettano al varco. Oh, non sono più gemelle ora. Hanno smesso di esserlo a 30 anni. La signorina Anna è diventata vecchia e non troppo carina, e la signorina Ada è rimasta trentenne e ancora meno carina. Non so dirti se la signorina Anna sia capace di sorridere, non l'ho mai vista giungere a tanto. Ma la signorina Ada sorride tutto il tempo ed è ancora peggio. A ogni modo sono gentili e premurose e accolgono due pensionanti ogni anno, perché l'anima parsimoniosa della signorina Anna non può sopportare di sciupare tanto spazio, e non perché abbiano bisogno di quattrini, come la signorina Ada ha avuto modo di dirmi 7 volte sabato sera. La tua camera è sulla facciata e dà sul cimitero di Old St. John's, che si trova proprio dall'altra parte della strada. Mi fa venire i brividi, rispose Anna ed ebbe un fremito. Preferivo la veduta sul retro. Oh no, non sarà così, aspetta e vedrai. Old St. John's è un posto molto grazioso. È un cimitero così antico che ha cessato di esserlo ed è diventato uno dei posti più interessanti di Kingsport. Ieri vi ho soggiornato a lungo per una piacevole escursione. Ha un muretto di grosse pietre e un filare di piante secolari tutto intorno, ed è attraversato da fitti vialetti di alberi e disseminato delle più bizzarre pietre tombali che uno possa immaginare, con le iscrizioni più strane e curiose. Ci andrai a studiare, Anna. Sono pronta a scommettere. Ovviamente nessuno viene più sepolto laggiù ora, ma pochi anni fa vi costruirono un bel monumento in memoria dei soldati della Nuova Scozia caduti nella guerra di Crimea. È situato proprio di fronte al cancello d'entrata ed è un trampolino per l'immaginazione, come eri solita dire tu. Ecco qui il tuo bagaglio e i ragazzi che vengono da augurarci la buonanotte. Devo proprio stringere la mano a Charlie Sloane. Le sue mani sono sempre così fredde, sanno tanto di pesce a toccarle. Dobbiamo chiedergli di venire a farci visita di quando in quando. La signorina Anna mi ha detto con grande solennità che possiamo ricevere giovani gentiluomini in visita 2 sere la settimana. Se vanno via a ore ragionevoli. E la signorina Ada, sorridendo, mi ha strappato la promessa che non siederanno mai sui suoi cuscini buoni. Ho affermato che avrei fatto in modo che ciò non avvenisse, e va bene. Ma cortesia vuole che gli ospiti si siedano e mi domando dove altro possono farlo dal momento che la stanza è letteralmente invasa dai suoi cuscini buoni, a meno che non siedano sul pavimento. Anna rise tutto il tempo. Le allegre chiacchiere di Priscilla riuscirono a tirarle su il morale e per tutto il tragitto la nostalgia rimase sopita. Per non risvegliarsi in tutta la sua primitiva intensità, nemmeno quando si ritrovò sola in camera da letto. Si recò alla finestra e guardò fuori. Sotto la strada era buia e quieta. Sull'altro lato della strada la luna splendeva sugli alberi di Old St. John's. Dietro la grande testa scura del leone sul monumento, Anna si domandò se era proprio vero che aveva lasciato Green Gables soltanto quella mattina. Avvertiva la sensazione tipica, dopo un viaggio e un brusco cambiamento, che fosse trascorso un lungo intervallo di tempo. Questa stessa luna si starà ora affacciando su Green Gables, meditò. Ma non voglio pensarci. La nostalgia condiziona troppo. Non mi farò neppure il mio pianterello liberatorio. Lo conserverò per un'altra occasione. Per il momento mi limiterò ad andare a letto calma e giudiziosa e a piombare subito addormentata.